Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, come cercate di fare con gli altri. Lei manda in merda, volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivi! Certo, certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Una delle domande esistenziali più ricorrenti nella mia vita è questa: ma com'è possibile che non riesca a fare a meno di questa trasmissione di merda? È scientificamente provato che la zanzara, grazie all'intervento di ospiti illustri quali Siffredi, Nappi, Karma Quotidiano e l'eccellentissimo dottor Bossi, contribuisce all'incremento del tasso di fertilità degli italiani. Controindicazioni: ascoltare Parenzo provoca calo immediato della libido. Allora ragazzi, non vorrei parlare del Fertility Day, di cui non mi frega assolutamente nulla, zero. Certo, però, quando con i soldi miei, con i soldi vostri, i soldi di tutti quelli che ci stanno ascoltando, un ministro che non ha la buona decenza di dimettersi, ma di cacciare un suo collaboratore, cacciare come se lei non sapesse nulla di una campagna. Cioè, il ministero fa una campagna per la fertilità, lasciamo perdere, ne abbiamo già parlato tanto, no Parenzo? Sì, ma ministero... la campagna in sé non è sbagliata per ma la lascia fertilità perdere, uno. Lascia perdere, uno è può sbagliato giudicare. Il manifesto, la sì. Campagna di comunicazione. Allora, uno fa una campagna di comunicazione, giusto? E poi sì, una campagna di comunicazione con un cartello, l'ultimo, parliamo solo dell'ultimo, aberrante. Con un mondo diviso in due, i bianchi e i neri, uno che si fuma uno spinello, eccetera, eccetera, e quegli altri che stanno bene, non so dove, al mare, coppie eterosessuali, eccetera, eccetera. Allora, quando uno fa una cosa di questo tipo e poi caccia un suo collaboratore, è proprio una cosa meschina, vile. Perché primo sei doppiamente colpevole perché non hai visto quel cartello, non hai visto quel manifesto, doppiamente colpevole perché l'hai mandato in giro, e poi nessuno ci crede che non hai visto la campagna di comunicazione. Allora io dico una cosa, la Lorenzin, che è il ministro della salute... Beh, però lei dice che lei ha verificato... Sì. E la foto che avevano scelto non era quella. Scusami, tu ci credi a queste cose qua? Tu fai una campagna di comunicazione. Ma io, una testa è rotolata. Ma che vuol dire? Ma è la principale e testa. E quindi almeno qualcuno si è dimesso. Ma perché per una volta non attacchi un ministro? Cioè, attacca un ministro una volta ma in vita no, tua. Dipende, ma ragazzi, dipende, ma va cacciata a pedate nel sedere, scusami. Si non può sa... attaccare del merito. No, capito, scusami, Davide, una che fa una campagna. Ma ho messo controllo, ma infatti. Ma che ho messo fatto controllo? La testa del suo delegato. Ma hai fatto una direttore. Campagna? Hai fatto una campagna di comunicazione e non sai nemmeno quello che viene comunicato. Beh, dice ma di lei non sa... dice la ma foto... lei dice appunto lei la dice foto lei autorizzato non è la quella poi passata. Ah, ragazzi, ma come si fa, su, come si fa a credere, cioè, secondo me dice una bugia, ma anche fosse così beh, fosse cioè... così lei no. Infatti ha fatto rotolare la testa del direttore. Senti quello che dice la Lorenzin. Nessuno nel ministero aveva intenzioni razziste. Beh, quello, scusi, caro Lorenzin, però ci mancherebbe pure che uno aveva intenzioni razziste. Cioè, vabbè, quello sarebbe stato incredibile. A me mi fa impazzire l'ovvietà di certe cose, cioè la banalità di certe risposte. Nessuno aveva intenzioni razziste. Ma ti credo che nessuno aveva intenzioni razziste. Ma se pensassimo che qualcuno aveva intenzioni razziste, bisognerebbe mandare la forza pubblica, no? Nessuno nel ministero aveva intenzioni razziste, e accusare il Ministero della Salute di razzismo è una cosa veramente forte. Ancora Lorenzin, mai così famosa, mai così sul web, sulle prime pagine dei giornali come in questo caso, eh? Bisogna dire la verità che in un modo o nell'altro resta un po' sulla cresta dell'onda. Ma ragazzi, ma essendo parte della Lorenzin di un partito inesistente, secondo voi molla la poltrona? Cioè, secondo voi quella poltrona lì, che non è frutto, che non è frutto di elezioni, non è frutto, ma di accordi politici. Beh, che appartengono vale tutti, a un'altra epoca, a un'altra. Secondo voi quella poltrona lì può essere mollata? Mai. Nemmeno, non lo so, dovesse pisciare in testa a Mattarella. Cioè, nemmeno in quel caso mollerebbe la poltrona. Ma per dire, no? Per fare una, non credo che accada. Una metafora, per dire. Ma mi pare che però l'evento più importante sia stato il licenziamento del capo della comunicazione. Ma chi se ne... Ma la gente che cosa cazzo gliene frega di questa roba qua? Ma che gliene frega? Beh, che hanno... Deve ma... sapere che la persona che ha curato la campagna, tal Rodorigo, mi pare Daniela Rodorigo. Ma sai, la gente si è... Il capo della comunicazione, ragazzi, di questa... è stata dimessa. Ma secondo me se ne deve andare per due motivi. Soprattutto per un motivo. Perché non sapeva quello che poi è apparso sui siti web dappertutto, questa cosa vergognosa. Gli hanno messo una foto al posto di un'altra. L'hanno fregata, secondo te? L'hanno, per quale motivo? E per quale motivo avrebbero dovuto fottere? Per quale motivo? Può essere in difficoltà, può essere. Senti, se questa qualche cosa... collaboratore un no, po' no, però aspetta, so, sentiremo questa cosa. La sua versione. No, però versione ti faccio sentire quello che taglia la testa al toro definitivamente. Senti, è come se lei in qualche modo stesse avallando quella campagna in cui quelli si drogano e quelli stanno bene, no? Cioè stili di vita corretti e stili di vita invece... Sì, che è una stupidaggine, scorre... mega galattica. Certo che è una stupidaggine, questo sono d'accordo tutti, forse... non so chi non è d'accordo, forse l'amico Giovanardi o non lo so, qualcun altro, ma sì, ecco, può forse essere. Non lo so, ma nemmeno lui credo, nemmeno lui. Senti questa cosa qua, senti che dice Lorenzino. Aveva dei tratti razzisti nel Deplian, c'hai, diciamo, salute e nel Deplian era oscurata, ma quelli si stavano drogando. Cioè lei sapeva perfettamente, quelli si stavano drogando. Quelli si stavano drogando. Stili di vita, non con quelli. Dunque, sapeva perfettamente tutto quello. Sapeva tutto, sapeva per filo e per segno quello che sarebbe stato messo online, quello che sarebbe stato messo nei manifesti. Sapeva tutto. Diciamo la verità. Sapeva forse la campagna, forse voleva dire: se ti droghi, non hai uno stile di vita congruo alla fertilità. Come se fumi, eccetera. È una puttanata anche questa. Però un conto è dire questo, un conto è dire se ti droghi e sei di colore. Che questa è una... Ma è una puttanata. È una puttanata anche quell'altra. Non è che, claro, uno... che la droga e ma il fumo uno... riducono la fertilità. Ma ah, perché se tu ti fai le canne si riduce la fertilità. No, ma se tutti sanno che se il tu fumo... ti fai le canne si riduce la fertilità. Beh, ma come poi... te ne fai, riduce la fertilità. Ma che... sicuramente ma come quello... qualsiasi accesso, anche se te fai ti rimpinzi di alcohol con 10 litri di whisky al giorno. Beh, no, il fumo si sa che è uno dei fattori che riduce la fertilità, ma non se fumi e sei ragazzi, di colore. Non ce la posso fare, guarda, non ce la posso. Questo fare. È il punto. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare perché mentre la vicenda di Roma delle Olimpiadi fortunatamente si è chiusa e Malagò però non ci vuole stare. Fa benissimo. No, no, fa male perché a un certo punto quando Malagò, devi sapere una cosa. Bravissimo. No, devi sapere una Malagò, cosa. Malagò sindaco di Roma bisogna fare. Allora, devo dirti una cosa molto semplice. Le Olimpiadi non sono dell'Italia. Le Olimpiadi sono un patto che nasce tra il Comitato Olimpico Internazionale è una città, è il sindaco di quella città. Se il sindaco di quella città dice no, Renzi e il governo, come infatti accade, non possono fare nulla. Se queste cose non le sai, è meglio non parlare. Cioè, il Comitato Olimpico Internazionale fa un patto non con l'Italia. Lui comunque aspetta, deve difendere da presidente del CONI. Ma sì, ma difende quello che vuole. Ma una volta che il sindaco ha detto no, piglia e porta a casa, basta, è chiusa la partita. Giù la Claire. Ha speso dei soldini. E chi se ne frega? Siamo buttati dei soldi per colpa di no, siamo noi che dobbiamo farci ridare i soldi da quelli che li hanno spesi. Noi che ce li dobbiamo fare ridare per un'opera già fallimentare. Noi ce li dovremmo fare ridare i soldi da quelli che li hanno sprecati da un anno a questa parte per una candidatura che era già morta. Però in tutto questo, caro David, c'è il signor De Magistris, sindaco di Napoli. Io devo dirvi la verità, ragazzi, io ammiro De Magistris perché è un sindaco che da solo, senza l'appoggio dei partiti, alla fine è stato eletto due volte a Napoli, è un grande uomo di comunicazione. Essere eletti a Napoli due volte sindaco in quella situazione lì non è una situazione facile. E dunque io ho una certa ammirazione per De Magistris. So che li sto sulle palle, ma chi se ne frega, sto sulle palle a tanti. Io dico esattamente quello che penso e credo che sia anche un buon sindaco De Magistris. Adesso non conosco bene la situazione di Napoli, però uno che è stato eletto con 60%, eccetera, eccetera, non ho nessun problema con De Magistris. Ed è anche un grande uomo di comunicazione, no? È uno che sa stare, no? Cioè, assolutamente. Sta sul pezzo. Propone di nuovo le Olimpiadi a Napoli. Non voglio tornare su questo, però oggi lo ha detto, capito? Proprio oggi lo ha detto, candidiamo Napoli alle Olimpiadi e sentiamo. Poi abbiamo dimostrato di saper essere capaci di organizzare qualsiasi evento, di farlo con le mani pulite, di saper utilizzare risorse pubbliche, quindi noi presenteremo formalmente questa candidatura alla presidenza del Consiglio e alla presidenza del CONI. Vabbè, è inutile soffermarci sulla follia. Mi pare magnifico e anche geniale. Ma che... geniale dal punto di vista, allora, politico, ragazzi... perché scavalca i 5 Stelle. Quindi ma geniale. Che geniale, ma ragazzi, è una cosa geniale. Detta così per fare casino, ma nessuno... È ottimo anche da un punto di vista politico, cioè io sono in grado di gestire un evento così, quindi è un politico serio. Allora, posso dirti una cosa, caro David? Se la campagna, tornando un attimo sulla campagna della Lorenzin, no? Se quella campagna assurda della Lorenzin l'avesse fatta, che ne so, un ministro o uno sindaco della Lega, cosa sarebbe successo? No? Dimmi la verità, o un sindaco di centrodestra. Cosa sarebbe accaduto? Sarebbe successa la stessa buriana che c'è ora, in cui si chiedono le dimissioni del ministro. Ma che, ma e il ministro sono... ha fatto rotolare la testa del capo della comunicazione. Ma secondo te qualcuno sa la Lorenzin di che partito è? Cioè, se tu chiedi in giro alla gente, no? Alle persone normali, scusi, a parte che forse non conoscono nemmeno Lorenzin, ma se tu gli dici, scusi, Lorenzin di chi è? Cioè, perché è lì ministro? Non lo sanno, nessuno lo sa. Non no, lo... questo lo sanno. Nessuno! Tutti. Mentre uno dice Renzi è del PD, se uno dice Lorenzin, scusi, di che partito? Qual è il movimento politico? Politico che l'ha portata grazie ad elezioni popolari a diventare ministro della Repubblica. Boh, alcuni sai che non lo sanno, secondo me. Molte persone non lo sanno. Nessuno lo sa. Trattasi, come è evidente, di ministri totalmente abusivi. Ma è, mi pare chiaro. Beh, non è... abusivi non direi. Ma proprio, sì, abusivi secondo la logica, secondo termine il tecnico. Diritto. Cioè, sono abusivi, gente che non ha nessun consenso per stare lì. Sono là per una congiura di palazzo, per una trama di palazzo. Eletti di palazzo, con Berlusconi, adesso. Eletti con Berlusconi, sono ministri di Renzi. Ma è una vergogna o no questa roba? Io non capisco come si fa a non dire che è una vergogna. E si permettono di fare campagne del genere razziste, apertamente razziste, e manco si dimettono, perché altrimenti là non ci arriverebbero mai più nella vita. Non mi fate incazzare pure oggi, dai, su ragazzi, che tempo è lungo, mancano 2 ore e mezza alla fine. Ma che cazzo me ne frega a me del traffico, che sono in giro a piedi a cercare i Pokémon. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Vai, partiamo ragazzi, partiamo! Cosmo Milano, dai, Cosmo! Senti? Sì, ti sento Cosmo, vai Cosmo. Pierangelo Bertoli, Alex Zanottelli alle Guglie, Giampiero Mughini alle Fogne. Che è successo? Assieme al numero uno degli Zanza, re delle zanzate, ex sindaco di Salerno. Ma che? Il nome lo dite voi, se De volete, Luca. A me disgusta. De Luca. David Parenzo. Sì, che ha fatto Parenzo? Peggio di quanti lui indica come i peggiori del mondo, cioè? Presenti o del passato. Cioè? Urge un articolo di legge, sì, che punisca chi, sì, osi invocare il divieto di espressione, sì, per chi che sia. Qui urge l'ambulanza. Impedire, urge. Togliere, negare la libertà d'opinione. Ma chi la vuole togliere? È il primo della lista dei delitti. Qual è? Che origina ogni crimine contro l'umanità. Urge avvisare la famiglia di Cosmo che la situazione è molto grave. Urge chiamare un'ambulanza. Guarda, immediatamente. Guarda, Parenzo. Sì? Sì? C'è tua moglie a gambe larghe. No, che no, dice no, no, traffico. No, ma che c'entra sua moglie adesso? Eh no, allora digli stare zitto. Ma come deve stare zitto? È qua per parlare. È qua per parlare, deve stare zitto. Volgarità, sì, ma non offendere. Non offende la volgarità, imbecille, che non è altro. Scusa, Cosmo, caro Cosmo, però in tutta questa tua elucubrazione non abbia gambe larghe, no, dice Cosmo, stai tranquillo, sì, stai calmo, adesso arrivano i medici, però stai tranquillo, fra poco arriveranno, sì, i medici. Però, sì, perché devi attaccare persone che non ci sono con come dire, con rappresentazioni, con queste frasi così? No, perché li sento da anni, li ho sentiti anche ieri, no? Ma che cosa hai sentito? Allora, spiego. Spiegami. Io dico che Parenzo, sì, è come, anzi peggio, di, sì, chi lui stesso accusa. Ma chi accusa? chi sta accusando? I peggiori soggetti che lui etichetta come nazisti, fascisti. Beh, tutti i peggiori. Sono quelli che dicono di esserlo, però. Lui è peggio di loro. Perché è peggio? Perché è uguale, fa finta di essere diverso. Peggio anche perché non è cretino. Fa il cretino per biechi. Ah, perché dici che non vuole fare, non vuole far parlare le persone, tu dici. Non vuole far parlare. Certo, come, come ad esempio con Salvini, come con Mauro Davanzova. Io non sono della Lega, non ho mai votato Salvini. Cosa? Mauro da Mantova. Va bene, Cosmo, adesso non è che non trattasi di statista. Ma la libertà, la libertà di espressione, sì. Uno può dire il falso anche se dà dei dati numerici, allora lo può accusare per falsità. Se uno indica un fatto preciso, a tale ora lui ha mandato all'ospedale. Secondo te, secondo te Parenzo è fascista peggio di quelli che lui chiama fascisti? Va bene, ho capito. Ciao Marco. Lui, hai qualcos'altro da dire prima che arrivino negare la possibilità di esprimersi a qualcuno. Va bene, prima che arrivino non hai volgari idioti. Prima che arrivino, chiunque quelli che offendono per me possono andare a quel paese. Crimini contro l'umanità. Prima che arrivino gli infermieri, hai qualcos'altro da dire? Io, quelle sono opinioni, quelle di Salvini. Quelle Ma che c'entra di Salvini Mauro adesso? Ma sono opinioni. Marco da Rimini, ciao Cosmo, ciao. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Eccomi, no, sulla pubblicità, la comunicazione della giornata. Sì. Al di là, vabbè, dell'evidenza, perché già il fatto che la prima cosa che è stata specificata, guardate che non è un fake, perché chiaramente la prima cosa che tutti abbiamo pensato, ovviamente è una bufala, ma al di là di questo, ripensandoci, alla fine è una comunicazione fatta dicendo quello che si vuol dire, cioè quelli sopra della foto, cioè i bianchi, i fighetti, sì, sono quelli che non fanno figli, come o li fanno tardissimo, no? Come la Lorenzi. Il messaggio era quello che si voleva dare alla fine, anche se poi è venuto come è venuto, però probabilmente era proprio il messaggio che si voleva dare. Non ho capito qual è il messaggio, non ho capito bene. Ma il messaggio rivolto, fate figli voi bianchi, ariani, perché tanto migranti... quello francamente mi sembra... Questo non mi pare. Ma sì, però alla fine, secondo me, la cosa è questa, ci sono gli stili di vita corretti e ci sono quattro ragazzi bianchi, allegri, sorridenti, e poi ci sono gli stili di vita, cioè quello che non bisogna fare... per essere fertili, credo che il messaggio fosse quello, e c'è un tizio rasta nero, forse un altro nero che si vede in sottofondo, fumano le canne. Questo è il punto fondamentale, cioè non è un altro, cioè se te fai le canne non puoi fai figli, è una stronzata talmente e in più ti fai le canne in quanto nero, cioè perché forse lei pensa che i bianchi non se le fanno, non lo so, cioè, comunque ragazzi... il messaggio è rivolto ai bianchi, cioè il messaggio non è rivolto a nessuno perché è una stronzata, dunque non può essere rivolto a nessuno, vabbè. Nessuno può avere colto nulla in questa cosa, niente, se non una confusione, una puttanata, perché le immagini non si vedono nemmeno chiaramente. Il problema è che sono tutte cose fatte con i soldi nostri, con i tuoi, con i miei, con quelli di David, con i direttori della comunicazione dei ministeri pagati più di 200.000 euro l'anno per partorire queste minchiate. Questo è il punto fondamentale. Ministri che non dovrebbero essere ministri, eccetera, eccetera, eccetera, che partoriscono queste boiate in nome nostro, con i quattrini nostri. Chiaro? Davide da Torino. Davide. Sì, ciao, dimmi, buonasera a tutti. Sì, fondamentalmente hai ragione sul discorso dei soldi nostri, però ci sono anche degli aspetti positivi da vedere, almeno secondo me. E in che cosa gli aspetti positivi? Provo a spiegarti. No, prova, perché questo anno, in questo periodo è stata attaccata per due volte, uno per la campagna sul fare figli, dove i giovani si sono ribellati, gli stessi giovani che poi ci aiutano con l'iPhone 7, hanno il televisore. Ma nessuno si è ribellato, perché nessuno se la fila. Questo è il punto. Queste campagne di comunicazione non le conosce nessuno. Se mi permetti, vai a vedere un attimo su Facebook gli attacchi fatti alla. Che Facebook che cosa rappresenta? I giovani, non ho capito. Sì, decisamente anche. L'attacco che è stato fatto alla Lorenzin sul discorso dei fare figli, no? E i giovani dicono che non hanno posti di lavoro, che è anche vero, lo capisco. Di crisi, senti Davide, ti posso dire una cosa? Sì, ma sì, certo, non ho capito qual è la cosa positiva. Mi spieghi qual è la cosa positiva? Al di là di queste tue idee, che comunque è una pubblicità. Perché cosa? Messaggi. Perché cosa? Qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Sbrigatevi a fare figli prima che diventate. Ma potrebbe anche essere quello. potrebbe anche essere quello. Ma perché, perché uno si dovrebbe sbrigare a fare i figli? Perché uno si dovrebbe sbrigare a fare i figli? Perché abbiamo la natalità. Ma ognuno fa il cazzo che vuole. Ma non è, non è proprio così. Ma... se vogliamo dare una continuità alla nostra cultura, alla nostra storia, alla nostra nazione, non cambia niente. Ma appunto, non cambia nulla. Cioè, non è che se gli dici a qualcuno fai figli, che sennò fra poco non sei fertile, oppure arrivano gli extracomunitari, oppure la nostra cultura si spegne, la gente fa i figli. La gente fa i figli quando li vuole fare, quando li vuole fare, quando tromba con la propria compagna per fare i figli. Vai a vedere un pochettino, la gente si diverte oggi. Oppure quando ci sono le possibilità economiche, oppure quando ci sono le possibilità economiche per farle, alcuni ragionano molto su quella roba là. La Lorenzin deve stare zitta sui figli, non deve dire nulla al Ministero della Salute, niente. Ragazzi, io dalle 18.56 alle 19.18 provo panico. Basta con questo traffico, giornale radio, basta. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. La Zanzara. Cioè, poi dopo non devi dire che in Terronia sono all'epoca, nell'epoca buia. Cioè, uno atterra in elicottero, altri fermano il traffico, il sindaco non sa un cazzo. Ma dai, ma secondo voi ad Esio può capitare? Ma vaffanculo. Caro Parenzo, che vogliamo fare? Riprendere subito la linea diretta, come si diceva una volta alla radio, ti ricordi? La linea diretta con gli ascoltatori, espressione orrenda che magari a te piace, perché ti piacciono tutte le cose un po' vintage. Oppure tutte le cose... apriamo i telefoni, apriamo le linee, linea alla gente. No, nessuno ha mai detto linea alla gente, no. Filo diretto, una volta c'era il filo diretto di diretto. Radio Radicale, filo diretto che poi parlava solo Pannella, no? Praticamente. Esatto. Matteo Viterbo, vai. Matteo. Ciao Giuseppe. Dimmi. Allora, pisciare in piedi o pisciare seduto? Ecco, questo subito. È importante, molto interessante. 7:20 subito. No, ma è chiaro, ma ragazzi, ma sono le cose di cui si occupano quotidianamente gli italiani, cioè è importante. Per esempio, oggi ho letto un'interessantissima ricerca sul perché è giusto liberarsi quando uno ha voglia di scoreggiare. Una grande inchiesta. Quando uno ha bisogno? Di scoreggiare, quando ti senti lì, invece di trattenerti, perché è giusto liberarti? Perché è giusto parlarne, non capisco. No, ma è giusto parlarne perché è una cosa... Tutti lo fanno, no? Tutti noi abbiamo un po' di meteorismo. Tutti noi, tutti. Beh, oddio, chi ce l'ha, però si cura con il carbone, ad esempio, no? Esatto, d'accordo, però magari invece c'è chi sostiene che è giusto liberarsi. E secondo me è uno che ne soffre difficilmente ne parla in pubblico. Ma perché invece? Bisogna... Allora, invito tutti quelli... la sacralità di alcune cose. Assolutamente no. Questo hai ragione. Voglio invitare tutti coloro che soffrono di meteorismo, soffrono gravemente... Ma sono tanti di quelli non che ascolto, ma che chiamano. No, perché dici così? Di meteorismo mentale, soprattutto. No, quelli che telefonano oggettivamente dovrebbero prendere del carbone così... Ma non è vero, dai, su. Comunque, Matteo, che cosa ci volevi dire sulla pipì? Scusami. Allora, sì, no. Riguardo questo fondamentale quesito, io volevo portare la mia testimonianza rispetto a quella che è la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica. Ma non credo che ci sia una posizione ufficiale sulla pipì, scusa, della Chiesa. No, c'è una posizione ufficiale perché io mi ricordo che da piccolo, quando andavo all'asilo, c'erano le suore che entravano nei bagni con i bambini e praticamente ci obbligavano a fare pipì in piedi. E mi ricordo che ci picchiavano pure. Ma non ho capito. Le suore ti obbligavano a fare pipì in piedi, allora? Quindi questa è la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica. Ma non è la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica, era l'istituto di suore dove andavano, dove le suore non si sa per quale motivo ti obbligavano, ma secondo me non ti obbligavano, nemmeno ti invitavano magari, cioè non credo che poi che erano presenti le suore nel momento in cui tu facevi la pipì. Sì, sì, assolutamente. E poi spiega perché poi questo chiama la zanzara. Cioè, scusa, spiegami, secondo te le suore ti guardavano mentre facevi la pipì? Sì, proprio aiutavano a esplorare. Ah, ma all'asilo, certo. Vabbè, all'asilo, certo. All'asilo. All'asilo. E si arrabbiavano se uno faceva la pipì da seduto. Scusa, ma perché dovrebbe interessarci come ti facevano pisciare le suore all'asilo? Adesso, Lorenzo, a me interessa tutto, no? Però, scusami, hai appena chiesto che la gente chiami per raccontarti... Se soffre di meteorismo, no, però questa è un'altra cosa. Qui ci sta raccontando la sua esperienza all'asilo con le suore che lo guardavano. Cioè, quando tu apri le stalle, ma questa è una tua idea. È evidente che l'olezzo sale, quindi chiunque chiama e racconta episodi, per carità, anche veritieri. Allora, ci sono 6-7 motivi, ho letto oggi, per cui è giusto liberarsi quando uno soffre di meteorismo, quando uno deve scorreggiare. 6-7 motivi molto importanti, che sono tutti motivi che riguardano la salute. Cioè, fa bene alla salute, non limitarsi, ma liberarsi. Non parlo solo del forno olandese, parlo anche di altre cose. C'è anche un problema però di opportunità pubblica, no? C'è un problema di opportunità, però alcuni se ne fottono, soprattutto a voi non è mai capitato, sicuramente a te sarà capitato, no? Di liberarti in pubblico con tutti che si guardano, no? Bellissimo, tutti ti guardano e non sanno che sei stato tu. E la gente guarda, e anche tu per fare finta a quel punto cosa fai? Fai così, che puzza, invece l'hai fatta tu, no? Che schifo, che puzza, invece l'hai fatta tu, bellissimo. Non hai mai fatto una cosa del genere tu, David? Non mi è mai capitato, non ti è mai capitato in un ascensore di scorreggiare insieme a 3-4 persone? No, francamente no. Non ti è capitato? Ma chiedo scusa se non ti è mai successo. Mi può essere capitato magari di avere un po' di mal di pancia e quindi aspettare l'arrivo al bagno e poi lì, come dire, gestire. Come sei perfetto. E lì dici, no! Come sei perfetto? È che non, io vigo, per me vige il principe non fare agli altri ciò che non vorresti. Ma non ho capito, ma che cosa è mai una scoreggia? Gli altri facessero a te. Non credo. Se solo in un luogo chiuso maleducazione di fare una cosa simile, mi pare. Ma invece io qualche volta che... l'ho fatto e mi sono divertito molto perché facevo poi... mamma mia, che schifo, chi è stato? Poi ero stato io, no? Bello, stupendo. Ciao. Sì. Abbiamo fatto un mix di Pellegrin, Radio Padania Libera, mix su Stato e Mafia, e non ci venga a dire quella testa di cazzo, per parlare chiaro, male, no? Che cos'è? Non è una testa di cazzo, zio Pellegrin? Ma all'ennesima potenza! Ecco appunto, no, anche tu sei d'accordo questa volta su... Totalmente! Sulla testa di cazzo. Anzi, restrittivo il termine. Vabbè, io dico una testa di cazzo, ma lo sai perché la cosa che mi fa incazzare di più dopo il nostro scontro di ieri, che ho visto adesso è stato pubblicato anche sul Fatto Quotidiano, non so dove... Però la cosa che mi fa incazzare di più è che uno non ammette quello che dice. Perché uno deve stare a petto di fuori e dire sì, preferisco le regole della mafia a quelle dello Stato italiano. Perché questo ha detto, no? Questo ha detto che la mafia rassicura di più rispetto allo Stato italiano. Questo ha detto. E poi però di fronte non hai il coraggio di dirlo, la testa di cazzo. Preferirei davvero essere governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. Questa è la mia posizione, preferirei la mafia. Le tasse che lo Stato italiano mi mette sono, credo, come il pizzo della mafia al sud, con la differenza che lo Stato italiano non smette mai di metterme. Credo che la mafia non sarebbe così folle da celebrare un suo mamma santissima che avesse fatto perdere 63 mila miliardi di lire. La mafia, lo Stato italiano, preferisco la mafia perché la mafia non è così aberrante da celebrare un uomo che ha bruciato 63 mila miliardi di lire. Cioè, tu ti rendi conto, questo qua è uscito da Pellegrini. Ora uno dovrebbe avere il coraggio di difendere questa cosa qui, siccome l'ha detto più volte. Dovrebbe avere il coraggio di difendere, cioè preferisco la mafia, i padrini, eccetera, eccetera, allo Stato italiano. No, ma questo che tu hai fatto sentire si ricollega al tema del meteorismo, ad esempio. Cioè, in che senso? È un classico esempio di flatus voci, come dire. No, questo non è vero. È il classico esempio di meteorismo radiofonico. Questo è mancanza di coglioni, perché uno dice una cosa e dovrebbe avere il coraggio di difendere quello che dice. Ma scusami, no, questo ha una coerenza, perché loro dicono di essere la pancia del paese. Loro spesso dicono no, perché ci attaccate? Noi parliamo come mangiamo, questo termine stupidissimo. Questo è giusto. Noi siamo come il popolo, noi siamo la pancia del paese. Quindi, se siete la pancia del paese, 9 su 10, esercitate quel flusso gastrico. Ma questa lascia bene, questa è la tua idea. Io invece analizzo solamente le parole che si dicono, e Pellegrini ha il diritto di dire quello che vuole senza che sia spenta la radio. Io dico solo una cosa: oltre a restituire il mal tolto, i soldi pubblici che sono stati dati, e dire nello stesso tempo che lo Stato. Anche diamanti volendo, quello che volete. Ma i diamanti quelli l'hanno comprati con i soldi pubblici, ma quelli ci sono i processi in corso. Però voglio dire una cosa: Pellegrini deve avere il coraggio di ripeterle quelle cose là. Non deve fare Forlani, cioè non deve fare il democristiano, no, ma io volevo dire il contesto, ma dai, su, dai. Lino Catanzaro, Lino da Catanzaro. Buonasera Parenzo, buonasera. Dimmi Lino, dimmi. Non mi tagliare, non mi censurare, perché venga a Roma, ci prenda a morti, applico l'articolo 21 della Costituzione. Aspetta. Cazzo, fammi parlare. Sì, ma se non... ti dobbiamo sentire però, scusami Lino. Lino, ti dobbiamo sentire, Lino, dai. Lino il cretino. Vabbè. Dai, Lino. Vabbè, Lino. Comunque io sarò cretino, tu sei il compare di Cruciani e sei il mandante, il killer, e lui fa il boss ed è il mafioso. Io voglio sapere come cazzo fate voi. Aspetta, devi parlare più chiaro. Devi parlare più chiaro. Il mandante di. Io sarei il mandante, tu sei il killer, secondo lui. Ma di che cosa? Ma che cazzo ne so? Fai il killer, tu Parenzo, fai il killer. Ma di che cosa? Ma di che cosa? Tu sei il boss della radio. Sei il boss, perché voglio sapere voi alla radio come fate a trasmettere come state trasmettendo. Beh, visto che rompo il cuore come in Italia, rompe i coglioni alle televisioni e alle radio con le cazzate, e voi fate quello che volete, perché lo fate tutti i giorni usando un linguaggio allucinante, sì. E voglio capire come fai, perché io sfido in questo momento. Dimmi, è un segreto, è un segreto. Non interviene l'ordine dei giornalisti, non interviene l'ordine nazionale, non interviene. Dimmi come cazzo fai. Lo voglio sapere. Sono un mago. No, sei un boss, sei un mafioso. No, boss, un mafioso. No, un boss, un mafioso no. Sono un mago. Ma perché sei così incazzato? Spiegami, Lino. Perché praticamente io applico l'articolo 21. Che è l'articolo l'articolo della libertà di parola. L'articolo della libertà di pensiero. E praticamente in Italia funziona malissimo questa cosa. Perché tu praticamente... Ma che c'entro io? Che c'entro io? Scusa, che io la applico ai massimi livelli l'articolo 21, no, scusa. L'articolo 21... Stai parlando anche tu, stai parlando anche tu qui alla radio? Che non parleresti, nemmeno a casa tua, parli qua alla radio? Quando ti conviene. Ma tu a casa non hai tu a casa non hai facoltà di parlare, invece parli qui a Radio 24. Chiediti perché. Tu a casa non ti fanno parlare, invece ti facciamo parlare noi, mi dovresti... Cruciani, chi ti sta parlando alla massima libertà in Calabria denuncia il mondo intero. Giornalmente lo denuncio dove? Anche in Dranghete, usura, fischiando la pelle a casa tua, dicevo. A casa tua casa tua e casa mia è la Calabria. Vivo la Calabria, la vivo intensamente, perché qui ci sono molte persone per bene che credono al di là del sindaco. E chi dice al contrario? Chi dice sempre Calabria Saudita, però, amico mio. No, Calabria è un cavolo, qui la Calabria è fatta da persone oneste. Sì, certo, non c'è dubbio. Corrotta. Aspetta, Lino, fermo lì, che c'ho la pubblicità che mi dà i soldi per dire tutto quello che voglio. Lino, aspetta un attimo, la pubblicità che mi dà i soldi per dire tutto quello che mi pare, aspetta. Più Cruciani e meno Vega. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. Allora, è di palmare evidenza che c'è il cesto di prima e il cesto di seconda classe, quindi sgarbi, se è un barbone e non vuole pagare il biglietto di prima classe, la va a fare nel cesto della seconda, se no caccia i soldini e sta in prima. Chiaro? Barbone! Cruciani, Parenzo, siete due potenziali omicidi. Voi state tentando di farmi incazzare Vittorione, che è cardiopatico. State tentando di ucciderlo, cazzo! Allora, Vittorione nostro, noi seguiamo day by day le vicende di Vittorio Sgarbi, come sai, Parenzo. è stato condannato oggi a 5 anni, sì, a 5 mesi, che 5 anni, sì. 5 mesi per la vicenda dei carabinieri, no? Perché ha detto fascisti ai carabinieri là, perché non lo facevano entrare all'Expo, fascisti, eccetera, eccetera. 5 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale, 5 mesi. Allora, eravamo con Lino da Catanzaro. Vai, Lino. Vai, Lino. Allora. Ok, abbiamo fatto la pausa pubblicitaria. Intanto... Beh, sì, questo ce ne siamo accorti. Allora, Lino, sì, voglio capire che noi. Cosa vuoi da noi. La cosa prima cosa. Voglio da te. Voglio sapere, sì. Ed è un mio diritto. No, non è un tuo diritto. Roma... Non c'è nessun diritto. Non hai nessun diritto tu. Vabbè, comunque, come vuoi tu. Allora, io ti dico, tu mi devi spiegare. Visto che tu parli. Aspetta, parla con Parenzo un attimo, io devo parlare al telefono. Mi stanno chiamando, non capisco perché. Io voglio vorrei capire chi mi chiama alle 19:37. Vorrei capire, aspetta, no, perché vorrei capire sul serio. Con chi parlo? Pronto? Io. Chi è? Giuseppe. Sì, che vuoi? Savino, che vuoi? Savino, che vuoi? Ecco. Ma che ti chiamo? Non lo so, Savino, non lo so, ti chiamo. Adesso ti chiamo. Sì, vabbè, mi fai un bel repertorio. Va bene, adesso vediamo se c'è tempo ti faccio chiamare. Ti faccio chiamare, signor Savino da Bari. Siamo Savino. Ormai al cioè, tu ricevi telefonate da questi. Ma sì, ma Savino l'ho conosciuto anni fa. Lino, allora che cosa stracazzo vuoi? Beh, desidero sapere da Parenzo che fa la televisione alla 7 e da te che fai tanti anni la radio. Probabilmente conosco questo mestiere, conosco come funziona la comunicazione, perché io voglio capire. Se no, io vengo al Corecom a Roma e denuncio a questo. Che cosa? Al Corecom. Al Corecom. Ma che cazzo è? Ma cos'è? Il comitato regionale di controllo qui. Sì, lo so. Ma che vuoi da noi? Che vuoi da noi? Cosa voglio da te? Voglio sapere come funziona la comunicazione. Voglio sapere come cazzo funziona questa comunicazione, perché a Roma funziona in una maniera e io voglio sapere da te, visto che parli e usi quel linguaggio, quando specialmente c'è stato Rocco Siffredi che ha raccontato quella porcheria in diretta di quell'anziana al funerale della madre. Allora io voglio sapere. Stupendo. Dalle 16 alle 19 c'è una tutela verso i bambini e verso la tutela dei bambini. Ma se per caso è un po' assente la tutela in quel periodo là, che tra l'altro non è dalle 16 alle 19, è dalle 18:30 alle 21. No, è dalle 16 alle 19. Ah, tu dici quella legale, quella legale. Quella legale. Allora, beh, lui era alle 19:40 però, Roccone. Però, scusa un attimo, scusa, voglio capire, 19:40. Voglio capire, cosa vuoi capire? Voglio capire. Cosa vuoi capire? Una bambina e un bambino, per caso di 10-11 anni, la madre va e c'è un attimo a fare la spesa, esce a prendere qualcosa al tabaccino, sì, torna, quella torna. Accende la radio e sente... Il bambino sente queste porcherie. Va bene per te? Perché se io avessi detto quello che tu hai detto, alla radio in Calabria o alla televisione in Calabria, arrivano carabinieri, guardia finanza, il Corecom e tutti quanti dietro e ci arrestano. Beh, ma la Calabria da questo punto come di vista fai? È medievale da questo punto ma di vista. Cosa è medievale? Siamo avanti con la comunità. Se ci fosse Radio Calabria, eccetera, in cui qualcuno descrive delle scene sessuali e c'è chi la chiude, sarebbe una follia, cioè sarebbe gravissima come cosa. Ma stai scherzando? Ma io voglio sapere, dimmi, una radio o una televisione che usa il tuo linguaggio, dimmela. Questo ora mi soddisfa molto, però. Questa cosa mi soddisfa molto. Non esiste. Sto godendo per quello che diavolo, dici. Lo voglio capire. Sto chi godendo. Ti denunciami. Chi ti permette, denunciami. Chi te la fa fare? Ti permette tutto questo? Denunciami. Chi è il boss? Chi è il boss? Hai detto che ero io il boss. Chi è il tuo protettore? No, non ho protettori. Non ho protettori. Parenzo, tu che fai la televisione alla 7, ti puoi concedere questo linguaggio alla 7 che ti in questo momento il mio protettore si chiama Napoletano. Fate presto. Napoletano, fate presto. Dove fai? Rispondi alla mia domanda. Dimmi. Con molta educazione. Con molta educazione, sì, dimmi. Che... rispondi. E qual è la domanda? Rispondi che tu fai il gioco dei due compari, fai stare oggi. Ma non è gioco, rispondi, non ci sentiamo mai durante il giorno, non è il gioco dei due compari. Senti, io non ho capito, tu di mestiere che fai, Lino? Io faccio un mestiere, un se cazzo, non voglio farmi pubblicità, praticamente non voglio un dire cazzo. Nulla. Sostanzialmente un cazzo. Io non voglio dire nulla. Quando uno non sa rispondere, quando dice che fai di mestiere? Non voglio dire niente. La maggior parte delle volte non fa un cazzo. Io faccio il produttore televisivo e produco da 30 anni prima di te alla radio, faccio radio prima. Ottimo, molto bene. Allora, da me, okay. da me cosa stracazzo vuoi? Vuoi capire come è consentito? Come tu voglio Non puoi. Solo io posso mandare in onda Rocco Siffredi che descrive nei dettagli una scena di sesso orale con una donna di 70 anni a un funerale. Ma tu sei descritto alle bellissimo, stupendo. Macchina, e ci siamo guardati tutti in faccia per dire: non è possibile, non ci credo. E cosa hai fatto dopo? Dopo sei andato in bagno? Che hai fatto dopo? Sei andato al cesso dopo? Cosa hai fatto? No, guarda. Amico mio. Voglio dire una cosa. Dimmi, cara. Voglio dire una cosa perché. Dimmi, tesoro. Dimmi. La radio che fai, perché io ti seguo da tempo per capire il tipo di comunicazione, perché studio marketing e comunicazione e voglio capire come funziona. Però non è così. Sì, io voglio la mia libertà e la libertà che hai tu. Io qui in Calabria non te l'ho. Non hai? Che cos'è? Cos'è che non hai? La libertà che hai tu. Ma che cazzo vuoi da me? Scusami, ma costruiscitela, costruiscitela, conquistatela, conquistatela. Hai la tutela legale? Hai la tutela legale? Ma adesso, ma che gliene frega la gente della tutela legale? Su, dai. Rispondi cos'è la tutela legale? Oddio, ma perché sei così noioso? Hai la tutela legale? Sei noioso, sei noioso. Perché non vuoi rispondere? Sei noioso, sei noioso. Hai la tutela legale? Sei noioso, sei noioso. Non rispondi perché non vuoi rispondere. Sei noioso, sei. Sei noioso, sei noioso. Allora, ti faccio sentire una cosa, fermo lì. Allora, da gennaio in alcune scuole francesi sarà usato un modello tridimensionale. Sai di che cosa, David? David? Sì. Oh, stai attento però, che cazzo fai? Ascolta, allora, di che cosa? Da gennaio in alcune scuole francesi sarà usato un modello tridimensionale di clitoride. Cioè... moltissime persone, uomini e donne, non sanno quasi nulla della clitoride. È un articolo uscito non su YouPorn in versione cartacea, è uscito su Il Post. Su Il Post. Da gennaio in alcune scuole francesi sarà usato un modello tridimensionale. Moltissime persone, infatti, uomini e donne, non sanno quasi niente. Vedi, io quando sostengo che va fatta l'educazione sessuale a scuola... Però non volevi che si arrivasse fino a questo punto, magari, no? Qui mi pare che la Francia dimostri grande... Allora, grande modernità. Tu per esempio sai che cos'è il clitoride? Tu lo sai, no? Beh, penso di sì. Insomma. Cioè, sai che cos'è il clitoride? Tutti lo sanno, secondo me, tutti quanti dovrebbero sapere le persone sì, che cos'è. È giusto fare educazione sessuale nelle scuole. Sì, allora, ma anche l'anatomia del clitoride. Alcuni dicono della clitoride. Certo, se no, come fai a fare educazione sessuale senza la conoscenza del corpo umano? Scusa. Esattamente. Cioè, vogliono spiegare in Francia, io non so se sono d'accordo o no. Solo quello, probabilmente. Come è fatta la clitoride? Alcuni dicono la clitoride, alcuni dicono il clitoride. Ora, io sfido veramente chiunque a immaginare un posto dove non sanno che cos'è il clitoride. Magari nel dettaglio. Cioè, secondo te, se uno chiede in giro che cos'è il clitoride, la gente lo sa o no? Cioè, se tu vai in giro a una donna in particolare. Lo sa, magari genericamente, però magari nel dettaglio. Stai attento, stai attento. Abbiamo fatto qualche telefonata. C'è ancora Lino, là il censore, là. Lino, perché non parli della criminalità organizzata dell'Andrangheta, che è la più potente nel mondo? Ma aspetta, c'è tempo. Ti piace? Tu sai che cos'è? Lo sai che cos'è il clitoride o no? Tu mi devi rispondere perché. Lo sai che cos'è il clitoride o no? Lo sai o no? Domanda mia. Stasera siamo alla follia. Sai che cos'è il clitoride? Tu hai la tutela legale. Sì, ce l'ho, così ci toglio dai coglioni. Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Sai che cos'è il clitoride? Sai che cos'è il clitoride o no? Perché paga con fiducia. Sì, certo che paga, non c'è dubbio. Perché la posta di parlare in testo di gay. Ma lo sai o no che cos'è il clitoride? Lo sai o no? Perché non parli? Vabbè. Perché non parli? Sei troppo... dell'attività organizzata, della gente che muore ammazzata, dell'usura, della gente che viene violentata, addirittura in una crisi economica. Dell'usura, perché non parliamo dell'usura? Dell'usura. Lino, aspetta un attimo. Pronto. Buonasera signora, qua la Mastur, azienda leader nel settore dei clitoridi. Conosce forse la nostra azienda? No, non la conosco. Posso chiederle solo quanti clitoridi ha in casa oltre al suo? Che cosa sono questi clitoridi? Per esempio, lei quando deve frullare le patate, fare la purea, la mussa... Ah, ce n'ho uno e non lo uso mai. Ah, quindi lei c'ha un clitoride ma non lo usa? Io c'ho un robot. E se noi le offrissimo un clitoride nuovo in legno, no, in acciaio? No, ascolta, non uso nemmeno questo, si immagina se ne uso un altro. Ed è che mi sono sposata, ce l'ho, ancora conservato là, non l'ho mai usato. Lei da quando è sposata non ha mai usato il clitoride? No, non mi piace fare queste cose. Comunque allora se io le offrissi un pacco di clitoridi... No, non mi interessa, senta, non mi interessa quello che ho a casa, si immagina come... Figuriamoci, è quello che dico anch'io. Grazie signora, buonasera. Pronto? Qua la Mastur, azienda leader dei clitoridi. Lei quanti ne ha in casa, signora? Io sono 5. La mia personalmente. Ah, lei ha 5 clitoridi in casa. E lei in cucina usa il clitoride? Scusi, il clitoride, scusi la mia ignoranza, che cos'è il clitoride? Mi perdoni, lei come taglia la cipolla rossa di Tropea in cucina? Col clitoride? No, io veramente uso il coltello, la vecchia maniera. Lei preferirebbe un clitoride in legno o in acciaio? Sinceramente io preferisco la vecchia maniera. E com'è il clitoride vecchia maniera? Ce lo dica. No, no, io uso il coltello, sbuccio la cipolla e l'aspetto con il coltello come classico. Quindi usa i coltelli e non i clitoridi, ecco, mi sembra di capire. Perfetto. Pronto? Sì, buonasera, qua la Mastura, azienda leader nei clitoridi. Posso chiederle quanti ne ha in casa? Non glielo so dire. Come taglia le patate o la cipolla rossa di Tropea o le melanzane bianche di Cefalù, indifferente? Con il coltello, devo essere sincera. Non fa uso abitualmente del clitoride, ecco. No. Lo preferirebbe di legno, in acciaio, in plastica? Tende l'acciaio. E neppure se noi le offrissimo un pacco di clitoridi a 10 euro non le interesserebbe? No, no, non mi interessa, uso il coltello. Cioè, tu capisci, no? Che le persone interrogate, soprattutto di una certa età, non sanno che cos'è il clitoride. Cioè, capisci? Non so perché pensano davvero che sia un'azienda. Ma sì, perché e quella è una finzione, naturalmente, no? L'azienda che si finge di uno strumento. Ci sono nomi di aziende che sono incredibili, come tu sai, no? E quindi... Sì, no, ho capito, ma il clitoride, se tu lo presenti come azienda, quelli ci credono che sia un'azienda, che sia uno strumento, sì, no? Se uno chiama per dire... Ma no, ma non sanno che cos'è. Cioè, non sanno cos'è. Cioè, se tu dici, lei sa cos'è il clitoride? No, non lo so. Dai. Oh, ma questo di Mantova, che si è fumato? La Zanzara. Ah, che goduria ieri quando Mughini ha dato del fesso a Parenzo. E lui zitto zerbino. Meglio di una trombata. Che goduria. Questo ce l'ha con te, eh? Sì, ma non mi stupisce. Va bene, Carmine Napoli, vai. Ecco, Cruciani, buonasera. No, no, non ecco è Carmine, era. Quello è Carmine da Roma, è un altro, dai. Carmine Napoli, dai. Pronto? Sì, dimmi. Cruciani, ti sei appecoronato al Politically Correct. Ma su che cosa? Su, spiegami. Come? Stai facendo una guerra contro quel manifesto lì della cosa, del Ministero della Sanità, dicendo che non è vero, che i negri si fanno più canne. Se ci fossero stati un gruppo di russi ubriachi avresti fatto lo stesso? Ma non ho capito, di che stai parlando? Su, spiegami. Sto parlando del... Sì, lo so di cosa stai parlando, ma non ho capito l'oggetto della discussione. L'oggetto è che ti sei appecoronato dicendo che il manifestino è razzista, quando non è vero che è razzista. Ma non lo so se è razzista o no, ho detto sembra una cosa quasi razzista. No, cioè. Non è Beh, vero, sì. Perché se guardi bene ci sono due negri e c'è una bianca che si fettano allegramente. Sì. Ma perché? Non ho capito perché le cattive, i cattivi compagni e le cattive compagnie da ma abbandonare. Ma sono stati dei russi che subiacavano di vodka. È la stessa cosa, avrei detto assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Siamo sicuri? Sì, assolutamente, la stessa cosa. Ma secondo me il processo ma qualche c'entra ma che c'entra politicamente corretto? Cioè, questa campagna, se di campagna si può trattare perché trattasi semplicemente di puttanata. Cioè divide, c'è una cosa divisa in due, le buone abitudini da promuovere e ci sono quattro ragazzi bianchi, sorridenti, eccetera. Non si capisce quali... è casuale che siano bianchi, è casuale. Invece sotto il rasta nero e insieme forse un'altra che si fa una canna o comunque uno pensa che si faccia una canna, anzi sicuramente si fa una canna. Ci poteva essere anche l'alpino che si ubriacava sotto, era comunque una ma non ho capito dov'è il comportamento che dal punto di vista del Ministero della Sanità non andava bene. Sì, e ci mettono il rasta nero che si fa le canne. Si mettono sotto. Ma ci potevano mettere anche l'alpino che e chissà perché e chissà perché ci hanno messo il rasta nero. Perché c'è un pregiudizio e un'ignoranza. Non è da fare una campagna da una levata di scudi. No, ma la cosa fondamentale è un'altra. Guarda, la cosa fondamentale, siccome è stato ammesso anche un errore, perché altrimenti non avrebbero cacciato il direttore della comunicazione, dunque è stato fatto un errore. La cosa assurda è che la Lorenzin se la prenda trovi un capro espiatorio per non andarsene. Due, la Lorenzin è espressione del nulla di accordi politici che nulla hanno a che fare con l'elezione, dunque è una ministra che io considero totalmente abusiva nel ruolo, naturalmente, non abusiva dal punto di vista della legge. Dopodiché, dopo una campagna di questo tipo, uno piglia e va a casa, cioè non ci sono altre cose, cioè che cosa c'è? Non ho capito. Non mettere un negro nei comportamenti virtuosi. Se ma ci fosse non mi stato un negro, sì, ha ragione su questo. Cioè che cosa se dice? Ci fosse stato un negro con i comportamenti virtuosi non avrebbe detto ma quali sarebbero i comportamenti perché virtuosi? Perché quel manifesto è pieno di stereotipi. Ma quali sono i comportamenti virtuosi dopo? Comportamenti definiti virtuosi. E quali sarebbero? Quali sarebbero? Quali i comportamenti che sono definiti virtuosi dal Ministero della Sanità? Ma quali sarebbero poi i comportamenti virtuosi? Non ho capito. Quelli sopra dove si vedono quei quattro bianchi sorridenti. Avessero messo due bianchi e due negri. Senti, gli stili di un ministero che fa un opuscolo dei manifesti sul web, sulla mura, non lo so, con gli stili di vita corretti, è una roba che non si vedeva nemmeno ai tempi dell'Unione Sovietica, capito? Cioè questo è il punto fondamentale. D'accordo. A me non me ne frega niente, il Ministero della Salute si deve occupare... come comportamento scorretto il fumare. Ora ma che quali sono canne, i comportamenti corretti o scorretti? Ma di che parliamo? Ma non è il ministro Lorenzin che mi deve dire qual è un comportamento corretto o non corretto? Andiamo su. I risultati d'accordo. Di questa cosa sono zero, spesso anche controproducenti, come è evidente nel tasso di fumo tra i giovani, dai. Allora, Francesco Modena, vai, Francesco. Cruciano, ciao. Dimmi. Allora, Cruciano, state diventando una trasmissione veramente di informazione culturale, scientifica. Mi piace, sì, veramente. Sì, ma assolutamente. Bravo. E più tardi, no. Avremo anche un professore che ci spiegherà come è giusto andare al cesso. Come è giusto cagare, certo. Assolutamente. Professore universitario, professore di un ospedale, c'è cioè uno che insegna, un luminare come piace l'apparenzo, che ci dirà qual è la posizione esatta per cagare. Ce lo dirà verso la conclusione della trasmissione. Allora, io volevo dare il mio contributo anche per te, cioè uno scopo veramente umanizzato questo mio intervento, capisci? Allora, tu hai già dichiarato varie volte. Sì. Che ti scappano le frenate nelle mutande, dai, le frenate di merda, a tutti. Sì. Però è qua casca l'asino. Cruciano, vedi, ano in croce. Dai, non fare lo spiritoso, che ti mangio in testa, sì. Dai, forza. Quello che ti volevo dire è che tu ti vengono le frenate nelle mutande perché non ti fai l'idea, e questo è il punto. Ma tu che ne sai di quello che faccio o quello che non faccio? Tu non ce lo fai, ma perché l'hai detto tu? Non facendoti il bidet, i residui di merda che lasci rimangono nel mutande. Vabbè, ma questa è una spiegazione molto semplice in realtà. Certo, però noi che stiamo in Italia abbiamo l'eccellenza del bidet, bisogna dire alla gente, soprattutto ai camionisti che ti ascoltano moltissimo, che si devono fare il bidet dopo che hanno cagato. Ma saranno affari col loro. Col dito, ascolta, col dito devi andare a togliere i residui, capito? Sì. Perché se no, visto che tu hai emorroidi per il tipo di fenotipo che nessuna, hai. Non ho emorroidi. Lo sanno tutti a Milano che le emorroidi. Francesco, vuoi fare lo spiritoso? Ma non ho assolutamente le emorroidi, ti posso assicurare. Vabbè, ciao, ti ho salutato. Ciao. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. La Zanzara. Non scordatevi il numero del cuore, 393-71-71-701. Ragazzi, questa sera siamo veramente alla follia, eh? Una trasmissione molto molto folle, più del solito, caro Parenzo, anche perché prima la persona che ha chiamato, tu dici come fa a avere il mio numero, una volta l'ho incontrato al mare, ad Andria, in Puglia, anni e anni fa, quando ancora mi invitavano alla presentazione dei libri, credo che fosse l'estate del 2012, se non sbaglio, poi adesso hanno deciso di no. No, ma adesso per fortuna non mi vedo più da nessuna parte, anche perché mi romperei i coglioni ad andare in certi posti, non ad, non ad Andria, non a, no, anzi ero, dov'era il paese lì, come si chiama? Paese Bisceglie. Allora, Savino da Bari. Savino, ciao. Dove hai presentato il libro a Bisceglie? Io sono di Andria, però vivo a Trani. Sì, sì, Savino Zinfollino ti chiami di cognome. Zinfollino. Savino, no, tanto per chiarire, Savino. Allora, Savino, che mi devi dire stasera? Perché mi hai chiamato? Niente, tutti i giorni vedo i politici che si denunciano tra di loro, sì. No? Sì, chi si denuncia tra di loro? Tutti, no? I partiti. Tutti i partiti, destra, sinistra, centro, ma non si denunciano tra di loro? Perché si denunciano tra di loro? Si denuncia, fanno a gara chi è più infame dell'altro, sì. E mettono tutte nelle mani della giustizia, no? E pensano che tutte la marciume, le malefatte loro, le devono risolvere la giustizia. Ma adesso punto, dai un quadro un po'. A sto punto, dico io, sì. Uscissero fuori dal Parlamento. No, ma scusami, questo signore. Aspetta. Si togliessero dal cazzo. Ho capito, ma il Parlamento, qualcuno ci deve stare in Parlamento. Ma la magistratura nel ma Parlamento. Questo raffinatissimo intellettuale della Magna Grecia. Tu, Parente, ha per caso subito qualche processo per usura? Parente, ascolta. Lei ha mai subito dei processi per usura? Devi imparare ad ascoltare. No, però ti sta dicendo una cosa. Io voglio chiedere una cosa. I polizi hanno rotto il cazzo. No, ma questo può anche essere. Ma lei, professore... Lo fai stare zitto a quell'imbecille? No, Savino, aspetta un attimo, ti sta dicendo... Se lo fai star zitto riesco a fare... Un attimo, ti sta dicendo una cosa. Ha subito processi per usura? Se no, l'usura fa lo Stato. L'equità. No, ma lei ha mai subito dei processi per usura? Io ho due aziende che mi fanno usura. Lei deve avere due bypass per le cose che ha fatto. Tutti i giorni. Lo Stato mi fa le sue. No, lasci stare lo Stato. Lei ha mai subito dei processi per usura? Ma non rompere il coglione, parente. Magari lo state facendo. Risponde alla domanda invece di fare il farlocone. Giuseppe, mi fai star zitto a quell'imbecille? Ti sta facendo una domanda, Savino. Ti sta facendo una domanda. Mi fai stare zitto a quell'imbecille? No, ma ti sta facendo una domanda, Savino. Lo chiudo. No, ma ti sta facendo una domanda. No, io non sto zitto per nulla. Lei risponda alla domanda. Lo Stato a me mi fa l'usura. Ma lascia stare lo Stato. Lei ha mai subito dei processi con condanna per usura? No, ti sta... rotto il cazzo, Savino, ti sta facendo una domanda. No, io non mollo. Mi sta facendo. Hai mai subito dei processi per usura? Allora io domando, le mando tutte le fotocopie che mi hanno sequestrato in me e me l'hanno dato pure indietro. No, hai ma... capito? Perché? La domanda è questa: hai mai subito dei processi per usura? L'usura me l'hanno fatta a me, io avevo aziende. No, l'usura a me me l'hanno fatta. E lo Stato me l'hanno fatta. Vabbè, ho capito. Lo Stato, ma che vuol dire lo Stato fa usura? Tutti cioè, i giorni mi fa l'usura. Hai mai fatto l'usuraio? L'altra volta non l'ho mai fatto. L'altra volta voi vi ho detto venisse lo Stato da me, c'ho due aziende. Quando vuole lui da me, 40-50%, io le cedo a lui. Vabbè. Perché qui no, io mi voglio mettere a tavolino con lo Stato. Hai mai subito processi per usura, sì o no? È col sindacato. Io c'ho un processo che ho mandato a dire alla magistratura che non voglio processi in prescrizione. Vabbè. Andatevi domani, vi mando per le cui lettere. sei processato per mi mando le lettere. Vabbè, ma non ti scaldare, perché stai calmo. Sono 8 anni e mezzo, io ancora devo avere la giustizia. Ma devi stare calmo ancora, però finito, questo per dire che chi tuona contro lo Stato. Parenzo voleva dire una cosa. No, io voglio dire una cosa molto semplice. Se uno tuona contro lo Stato e contro il come lui che fa tanto il moralista contro i politici e poi ha subito un processo con condanna per usura, deve starsene zitto e avere il buon gusto di non telefonare alle trasmissioni. Primo, lo fai tu e quei cornuti dei politici, fatti moraliste. Ma quale politico? Ma l'ho detto l'altra volta. Lei è stato condannato per usura. Fossi lei, me ne starei in silenzio e chiuso nella mia spelonca. Vai a vedere i processi, pronto. Basta vedere i processi, basta la legge, il fascicolo. Non mi interessa. Io non ho mai subito un processo di usura. Mai? Non sono stato mai condannato. L'usura me la fa lo Stato. Io mi voglio mettere a tavolino con lo Stato. Con lo Stato ti vuoi mettere a tavolino? Vabbè, mettiti a tavolino con lo Stato. Con quel cornuto o con quella puttana della camusta. E voglio No, Savino, basta, mi rotto i coglioni. Ciao. Che fatica stasera, ragazzi. Allora, Stiamo calmi. Caro Parenzo, vorrei chiamare un signore. Un signore, caro David, che si chiama Daré, Tony Daré. Tony Daré è un leghista di Vittorio Veneto, è anche il capo della Lega Veneta, cioè, come dire, esistono ancora questi. Sì, è il capo della Lega Veneta, cioè il capo della Lega in Veneto, in pratica. Questo signore, il signor Daré della Lega, protesta perché sembra che a Vittorio Veneto, nel suo paese, vogliano fare votare gli immigrati appena arrivati, cosa che mi sembra incredibile, secondo me non è possibile, vogliono fare votare per le elezioni amministrative, per il voto, sai, nei quartieri, no? Il voto nei quartieri. Sì, certo. E dunque è incazzatissimo. Daré, uno molto verace della Lega, credo, d'antan, quella Lega bossiana. Sentiamo. Pronto? Sto parlando col mitologico Tony Daré. Chi parla? Sono Cruciani, Radio 24, ciao. Sì, dimmi. Come stai? Bene. Senti, volevo chiederti che succede a Vittorio Veneto con questa storia del voto degli immigrati. Che succede? Un casino? Ma col voto degli immigrati, questi hanno deciso di portare al voto per i quartieri, di far votare anche, diciamo, qui quelli che sono arrivati con le barche e che loro hanno regolarizzato dando la carta d'identità. Ma chi vogliono far votare? Scusa, non è possibile. Uno può votare solamente se è cittadino italiano, no? Sì, può votare se è cittadino italiano, ma siccome il regolamento dei quartieri è un regolamento interno al comune di Vittorio Veneto, tu dici, quindi, che possono favorire il voto anche di chi non è cittadino? Possono mandare anche chi per la legge italiana non è stato regolarizzato, ma che comunque hanno comunque una carta d'identità e quindi hanno un riconoscimento e quindi sono residenti nel comune. Ma scusa, ma questi qua come li consideri tu, quelli che sono arrivati? Profughi? No, io li considero turisti a spese nostre. Come turisti a spese nostre? Sono turisti a spese nostre. Cioè, nel senso che nessuno... A spese del contribuente italiano. Cioè, dici che nessuno scappa dalla guerra, dici? No, qualcuno scappa dalla guerra, ma molti di questi sono dalla Nigeria, dalla Costa d'Avorio, dal Senegal, che non hanno l'esigenza di... non sono siriani. Tu dici che in questi paesi non si sta poi così male, dici? Ma credo che non ci sia la guerra, questo sì. Cioè, in Senegal come si sta, secondo te, se uno viene dal Senegal? Ma secondo me sta meglio che essere sulle tendopoli qua o nelle caserme. Cioè, tu quando guardi uno di questi qua di colore, no, come ti sembra dall'aspetto, Tony? Mi sembrano delle persone in che forma, in piena forma. Girano col telefonino in piena forma. Con no, scusi, professore. Mi sembra che persone che si imbarcano sulle carrette del mare. Questo è Parenzo. Non si imbarcano. Vengono con l'aereo, vengono in business class. Vengono in business class dalla marina militare italiana, che dovrebbe cambiare quantomeno le scritte e scriverci croce rossa quantomeno. Cioè? Oppure se la guardia costiera, che è scritto guardia costiera, dovrebbe fare la guardia costiera, li va a prendere, vuol dire che sono... Poi la business class cosa vuole? Guardi, la lascio le vostre cose. Grazie, buonasera. No, Daré, un attimo, Daré. Ecco, hai fatto incazzare subito con la business class, subito. Beh, incazzare. Credo, è un personaggio incredibile anche questo. Ho capito, qui. Dice che la Marina italiana è diventata il trasporto passeggeri per gli immigrati. Questo voleva dire, e dunque dovrebbe cambiare. Riproviamo, dai, ragazzi. Pronto? No, Daré, non si arrabbico. Agora la zanzara. Ma non mi devi, non ti devi arrabbiare con me. Non ti devi arrabbiare. Non ti devi arrabbiare con me. Agora la zanzara, dai. Non ti arrabbiare, avanti. Dai. Avanti coi profughi. Allora, Daré, avanti coi profughi. Avanti. Ma c'è l'invasione o no, secondo te, Daré? No, ma che invasione? ce ne devono arrivare ancora qualche milione per poter pareggiare i conti dei voti per il PD. Ah, tu dici che li fanno venire apposta. Sicuramente non voteranno per la Lega Nord questi. Ma Salvini mi sembra un po' più moderato rispetto a te, o no? No, Salvini è un moderato. Cioè, come moderato? È troppo moderato. Cioè, e cosa bisognerebbe fare con questi profughi? No, perché siccome lo state criticando, perché io invece dico, è moderato, lo voto, lo sostengo, lo sosterrò sempre, ma è comunque un moderato nei confronti di questo governo del PD e del ministro dell'inferno, no, dell'interno. Ma scusa, che bisogna fare con questi profughi? Una volta che stanno nei barconi, che bisogna fare? Sparare? In Italia si identificano, se hanno la caratteristica di profugo, bene, se sono scappano dalla guerra, bene, e se no, una settimana in Italia costa come il biglietto d'aereo di ritorno. Gli spedisci a casa, punto. No, ma saluti, questo per carità, per carità. Ciao, buone ferie. Aspetta, Dare, no, non te ne andare, Dare. Ogni volta la stessa scena, ogni volta. E per la terza volta riproviamo. Dai, su ragazzi, forza. Ancora con i profughi. No, ma scusami, Dare, però non mi puoi attaccare il telefono in faccia. È una cosa da cafoni attaccare. Secondo me a Zanzara Tigre. Ma scusa, ma non puoi attaccarmi il telefono in faccia, è una cosa da cafoni, no, scusami. Sì, scusa, ma guarda che mi sono io a lavorare, sto lavorando. Ho capito, lavorando, dai. Un attimo solo. No, ho capito, lavorando. Che fai tu di mestiere? Che fai di mestiere? Di mestiere faccio il lavagista, il lavamacchine, il lavacamion. Io vivo del mio mestiere, purtroppo non vivo di politica, per fortuna. Beh, ma sei il capo della Lega Veneta, però. Sei il capo della Liga Veneta, però. E cosa vuol dire? Vabbè, però. Il capo della Liga Veneta deve lavorare? No, per carità, deve lavorare, però è anche uno che fa politica. Sì. Fai anche politica. Invece qualcuno va in ferie, no? Io non ho capito se, per esempio, consideri Mattarella il tuo presidente. Questo è interessante. Mattarella, io non l'ho votato, di sicuro. No, ma è il tuo presidente o no? No, guardi, io avrei messo qualcun altro come presidente della Repubblica. No, ma lascia perdere un altro, ma è il tuo presidente, cioè l'Italia è il tuo paese o no? Oppure sei indipendentista? Guardi, io sono per il Veneto, guardi. Io sono per il Veneto, io non sono dell'Italia, guardi. Cioè, gli voglio anche bene. E la bandiera italiana? Guardi, la bandiera italiana? La bandiera italiana è la bandiera italiana. Non è la tua bandiera? Io ho la bandiera del Leone di San Marco, che è sicuramente più bella di quella. Cioè, non è la tua bandiera, mi stai Guardi, dicendo? La mia bandiera è quella del Veneto. Voi, se volete, ma non esiste il Veneto. Prendete quella italiana. Ma non esiste il Veneto come paese. Russa, ognuno sceglie. Ma scusi, io se tipo Milan, ma c'è una lei vuole Veneta, non Juve, credo. Tipo Juve, tipo chi vuole. Ma giustamente, no, aspetta. Ma esiste un'ambasciata? Siamo al top. La Zanzara. Uè, Truciani, prova a buttare giù a me il telefono, che ti faccio mangiare semolino per tutta la tua vita. A te e quell'altro sindacalista di sinistra, per modo di dire. Parenzo, non dire cagate. Dare ascolto ai nostri istinti primordiali è quanto ancora ci mantiene umani, va bene? Luciani, sto cagando, ma non riesco a capire come si faccia a 30 gradi. Faccio una fatica assurda ancora di più a 30 gradi. Come devo fare? Cagare col goniometro è proprio un'altra storia. Quando sento il traffico divento pazzo! La Zanzara. Hey! ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a Mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. Ragazzi, arrivati alle 20:20, Parenzo in collegamento oggi, come avete sentito, da Siena. Ospitiamo. Ecco, ma ti voglio dire questo, però, perché sì, mi sta scrivendo, si è creato un gruppo d'ascolto a Tel Aviv in un molto bene. In un roof garden di Tel Aviv, sì. Capitanato dal dottor Robert Hannuna. Sì, già nominato ieri. Sì, già nominato. Che tu ieri hai. Ho insultato. Sì. L'ottimo Robert Hannuna, allora, il quale è, però tu non lo sai, perché è un gourmet della gnocca. E vabbè, d'accordo. È veramente uno malato, dei più è malato, sì, è malato. No, siccome perché i miei amici, no, intanto non insultare. È un gourmet, così. È un gourmet, allora, nel senso gli piacciono molto le donne. È uno che è molto che è interessato molto all'articolo femminile, insomma. Sì, ho capito. Allora, sì, no, è molto comunque. Robert Hannuna ha organizzato un gruppo d'ascolto a Tel Aviv di 5-6 italiani. Adesso sarà appassionato al personaggio che stiamo per presentare, sicuramente. Che sono dei maniaci della zanzara, cioè Hannuna ti detesta perché ti reputa una persona. Ma questo è normale che mi detesta. Schifosa. Sì, sporca. Sì. Però nonostante questo, io ascolto quella porcheria per capire quanto basso è il livello di moralità in Italia. Questo dice Hannuna, Robert Hannuna. Allora abbiamo con noi la più grande MILF italiana, Lori del Santo, buonasera. Ciao, ma come ridete lì? Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo piangere, scusa. Lei conosce il signore del Santo Robert Hannuna? No, non lo conosco. No, è la prima volta che sento questo nome. È un signore ebreo, di nazionalità ebraica. Ricco? Allora potrei essere interessata. Esatto. Come lei sono interessata ai ricchi? Ma certo che sono interessata ai ricchi. In questo momento della mia vita uno fa delle scelte. Però scusami, tu stai con un ragazzino che mi sembra un morto di fame, scusami se te lo dico. No, lui è ricco interiormente. D'accordo. Ricco di gioventù, di voglia, di energia, ognuno ha le sue ricchezze. Però non è ricco, diciamo, di soldi, di denaro. No, diciamo. Ma i soldi portano depressione, portano non sapere come spenderli, essere occupati tutto il giorno a metterli in cassaforte, come salvarli, essere preoccupati. Chi non ha niente non si preoccupa di nulla. D'accordo, però a te i ricchi in generale piacciono i ricchi. Beh, a tutti piacciono i ricchi. Cioè gli uomini ricchi. Mi piacciono quando sono generosi. I ricchi tirchi possono anche scomparire, cioè vivono malissimo, vivono segregati. Senti, diciamo la verità, a me Lori del Santo piace per un motivo, perché dice sempre una cosa molto semplice ma molto vera, cioè le donne è giusto che sfruttino il loro corpo per motivi economici, giusto Lori? Io credo che il corpo sia l'unica cosa che possiamo dire con fierezza di possedere, quindi ogni persona lo deve usare, ovviamente nel rispetto dell'umanità, ma chiaro, come crede. Cioè se uno vuole, diciamo, utilizzare il proprio corpo per arrivare ad una posizione, per fare carriera, è giustissimo farlo. Cioè... Ma perché no? Cioè, ma scusa, a parte il fatto che promettere oppure raccomandarsi è sempre stato nella regola civile. Sì. Cioè una donna può deve sfruttare anche se aspetta vuole. Aspetta un attimo, perché l'ottimo Hannuna mi dice se posso dare alla signora del Santo il suo numero di cellulare. Ma no, ma perché? Ma non è interessata? È ricco il signor Hannuna? Questo ricco non lo dirò mai alla radio. No, no, deve essere straricco in questo momento della mia vita. Ricco e basta, non può non cambiare. No, straricco. Il signor Hannuna è un bellissimo ragazzo, vive attualmente in Israele, però spesso viene in Italia, è un italiano. Sì, ma è straricco, li cerca straricchi. E mi ha scritto, dalle il mio numero. Scusi, signora del Santo, perché cerca uno straricco, ecco, mentre appunto. invece no, è fidanzata con uno giovane? Ci sono tanti livelli. La ricchezza, che è quella normale, bella mattina, andare al ristorante, andare il weekend a Saint-Tropez, vabbè, lì ci arrivano quasi tutti. No, ma lo straricco è quello che proprio è un'altra cosa, è boy in privato, capisci, a un livello superiore, è quello che manca. Ma è quello che manca, è quello che ti manca, diciamo. Che manca da trovare, sì, perché... Ma una volta io non sei voglio stata... diventare ricca per riflesso, voglio vivere a un livello diverso, solo per essere amica, non per ricevere rubare anche... della ricchezza. No, per ricevere anche dei regali, naturalmente. No, ma se oramai anche i regali, cioè regali, cosa ce ne se facciamo? C'è l'ultimo regalo che ti... Ma potrebbe innamorarsi di uno però povero? Ma io, beh, cosa c'entra? L'innamoramento, il sentimento sì. vola nell'aria, è una cosa imprendibile. Quello con cui sta adesso è un ragazzo, non mi sembra ricco. È uno schiantato. Mi sembra abbastanza... è un senza diciamo, tutto. Bisogna rubare le emozioni, ecco questo bisogna fare. Quello sempre, in generale. Però dico... Ma lei prende anche delle sostanze... Cioè, no, perché prende delle sostanze? No, scusa, non credo che si sia mai drogata, signora Del Santo, no? Che cosa? Non ha mai usato droghe? Io rispetto del mio corpo, io sono l'unica persona che non farebbe mai del male al mio corpo. Dunque non ha mai usato... l'aspirina considero se è il caso di prenderla o no, più di una volta. Ma cocaina mai usata in vita tua? No, io per il mio corpo, per me è il mio Dio, io lo rispetto fino alla fine, se mi deluderà è perché scelta di Dio, non perché io l'ho ammazzato. Capito. Ma tutto il giorno lei cosa fa esattamente? No, adesso... Io sto montando il film dell'Edi 3 che uscirà la prima settimana di gennaio, sarà una bomba perché è un film che ha un substrato culturale con uno spessore extra enorme. È incredibile. Sì. No, ma io voglio capire una cosa. Appena, no, immagino, figuriamo. Appena finito, tra l'altro, Pechino Express, ma si riesce a fare? Non vogliamo sapere niente, non ce ne frega niente. Ma si riesce a fare sesso perché l'hai fatto col tuo compagno? Dentro Pechino Express? Sì, durante Pechino Express si riesce a scopare o no? Diciamo quando c'è il momento di pausa del cambio, non so, aereo, che cosa, in hotel si può. Certo. In hotel si può, ma anche durante. Ma non nelle case della gente, veramente io mi sono rifiutata. Sì, perché chi è che lo voleva fare? Il tuo compagno? Voleva... Sì, lui a lui non importa. Lui vuole tutto comunque, il tempo, no? Ma quello è un accatanato, mi pare. Basta che ci sia un insomma, buco. Lui dice, fa parte della regola giornaliera, però voglio dire, ci sono delle circostanze da valutare. Cioè lui vorrebbe fare sesso? Ogni giorno vorrebbe fare sesso? Ma sì, lui per lui è normale come mangiare e dormire, poi che altro c'è, basta, solo quello. Ma che è una bestia, scusa, cioè una specie di macchina da guerra. No, normale, è la vita normale, uno si sveglia, mangia, dorme, legge, guarda scopa. Il telefono, twitta. Sì, vabbè, ma... va bene. Sì, va bene, dunque in realtà non avete fatto sesso durante Pechino Express? No, durante, nella casa della gente che ci dava no, il loro letto, quello no. Con le loro lenzuola non cambiate, o addirittura senza il materasso, no. Lui lo voleva fare. Ci vuole del lusso anche per fare quella roba lì. Lui lo voleva fare. Senti, a proposito di lusso no, è un argomento che ci ha interessato molto. Tu ma fai mai la pipì sotto la doccia? Pensaci bene, sì, pensaci è capitato, bene. È interessante. No, perché Parenzo per esempio dice che è una sconceria, però secondo no, me no, beh, diciamo è una sconceria se si è in due e uno lo fa in due la doccia, ma se uno lo fa da solo anche quello può avere i suoi vantaggi, da un certo punto uno di da solo fa quello che vuole nel suo bagno. No, ma è anche comodo. È assurdo raccontarlo, è anche liberatorio. L'acqua corre, cioè in è fondo anche... è acqua, esatto, non sì. è. E per esempio, come vai al gabinetto? Allora, aspetta un attimo, è impazzito Cannuna. Mi scrive: "La sogno ininterrottamente ogni giovedì notte dal tempo del drive-in, avevo 11 anni e vabbè, ho capito, ma c'è tanta adesso gente, adesso c'è Pechino Express lunedì, che è una bomba, ininterrottamente ogni giovedì notte dal tempo del vabbè, drive-in, ma è tutto esagerato, non è così bella, sì, come esagerato, è tutto esagerato, signore vende fumo, mi sa, no, però ma... deve essere molto simpatico, no, ma soprattutto è esagerato, Cannuna, l'hai sì, dice? Ma devi dire a Cannuna che è classe 58 la signora Del Santo, Sì, però tiro ancora, attenzione. Ammazza se tiri, come no? È impazzito, continua a scrivere, è impazzito. Ma certo che è impazzito. Cioè, tra l'altro, devi dire a signor Cannuna che la signora Del Santo è molto interessata, è molto attirata dal fatto dei ragazzi giovani, perché? Perché sembrano quasi suo figlio, o sbaglio? No, come look, vabbè, la bellezza dei canoni, o biondo o moro. No, nel senso che spesso quando stai col tuo compagno dicono, ma che è tuo figlio? E la cosa poi ti fa... Sì, ma perché si assomigliano, ma è un caso. Non però è ti fa arrapare la cosa. Lo stesso colore di capelli. Ti attira la cosa, no? E anche la stessa età. Perché sono identici, stessa altezza, stesso colore, stessa cosa. Dunque, quando ci vai a letto sembra che stai facendo... Ma è un caso, è un puro caso, voglio dire. Ma non ci faccio, cioè è semplicemente una coincidenza. Senti, ma è vera questa cosa qua dei siti porno, che anche te ti hanno messo in alcuni siti porno? Cioè ci sono tue foto in ma giro, tue foto 8 in giro ci sono? No, io sono una che di nudi ne ha fatti pochissimo, cioè 2-3 volte quando avevo 20 anni, e molto castigati, cioè tipo Madonna appesa a un albero. Però voglio dire, invece cosa fanno? Prendono le tue foto ambientate, tagliano, tengono la testa e televisiva e poi mettono un corpo di un'altra persona che sta facendo oscenità. Questo non è carino, devo dire. Vabbè, ma chi se ne frega? Perché attira al VIP che fa cose oscene. Non invece so. Tu non hai mai fatto cose oscene. Ma per esempio, tue foto in giro ci sono? Cioè, tu no, io hai mai dato delle foto molto romantica nel fatto personale. Cioè, non hai mai dato foto? Non ci sono tuoi video porno privati? No, non c'è proprio niente, nulla di zero. No, anche perché io lo faccio sotto le coperte, anche se ci fosse la camera non si vedrebbe nulla. Certo. In che senso lo fai sotto le coperte? Sì, perché sono un po' l'antica, sai. Cioè, fai sesso sotto le coperte? Sì, perché o è freddo oppure c'è l'aria condizionata, appunto, che è troppo freddo, oppure cioè, senza sopra il lenzuolo difficilmente lo fai. Ho bisogno di caldo, c'è sempre una coperta che copre. Mamma mia, che tristezza. Brava, hai ragione. Senti, però una curiosità, ma come voterai al referendum costituzionale? Questo adesso è importante. Sì, come io voto come diciamo chi ci guida suggerisce, perché vuol dire che ha studiato la materia ed è giusto cambiare. Dunque come voti? Sì. Io voto per il cambiamento, e dunque, per cercare voti? Di voti modernizzare sì. questa Italia. Dunque voti sì. Voto, sì. Beh, a parte che ci penserò, ma comunque voto per il rinnovamento. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Io voglio il progresso, voglio cambiare le regole vecchie, feudali. Feudali. Sì, qui abbiamo delle regole feudali. Feudali. Cioè, purtroppo l'internet tutto va avanti e le leggi ridicole. Un mondo che viviamo nel medio, prima del medioevo. No, ma voglio capire se ferma lì che poi riprendiamo, ferma. Crucia Sinalo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. Allora, molti mi scrivono, in realtà Lori del Santo non è affatto MILF, ma ormai è praticamente una cougar, ma è molto orgogliosa di esserlo, è un gran pezzo di gnocca nonostante sia del 58, questo lo sanno tutti, è qui con noi, in collegamento da Roma, in collegamento da Siena, sempre per l'ultima parte della trasmissione, ma ragazzi state qui perché vi aspetto un finale incredibile, David Parenzo. Allora, cara Lori, lo sai che abbiamo scoperto oggi, e Parenzo può essere testimone, che molte italiane, certo di una certa età, non c'è dubbio, soprattutto del sud, non sanno il significato della parola clitoride. Cioè, se uno dice, siccome in Francia stanno per iniziare da gennaio un corso nelle scuole per spiegare anatomicamente come è fatto il corpo della donna, in particolare del clitoride, e in Italia abbiamo scoperto, telefonando alle persone, che quando tu dici, ma lei sa che cos'è un clitoride? Le persone non lo sanno, non conoscono il proprio corpo. È incredibile, effettivamente. Sembra incredibile, ma è così. Cioè, no, ma è una storia pazzesca che merita un focus, non so se è assolutamente. Assolutamente. Cioè, sei sorpresa da questa cosa qua, cara Lori? Guarda, secondo me non dovrebbero insegnare il corpo umano alle donne, ma dovrebbero insegnarlo agli uomini. Sono loro che devono sapere cos'è punto. Sì, cioè perché non conoscono il clitoride. No, per niente. Loro fanno il proprio interesse, 3 secondi e finita. Ah, la maggior parte degli uomini è così, ma il tuo fidanzato non credo però. No, voglio dire, ma anche il tuo fidanzato è così. Capissero che ci sono esigenze alternative. Cioè, mi stai dicendo che anche il tuo fidanzato è uno così? No, lui è istruito. Lui è istruito, l'hai istruito a capire almeno dove si trova il clitoride. No? E uno dove deve sapere trova. Almeno su certe cose. Sì, soprattutto qual è. Però veramente io ho capito che gli uomini lo sapevano molto tardi. Io ero già in avanzata età quando ho scoperto questa cosa, effettivamente. Che gli uomini non sanno spesso. Che anch'io non ero consapevole di che cosa? Molto bene di questa funzione. Cioè, l'ho scoperto tardi e quindi quando l'ho scoperto sono diventata esigente. Cioè, prima invece non ero per niente esigente. Cioè, hai scoperto tardi l'orgasmo clitorideo. Questo, esatto, insomma. Non lo sapevo. Parenzo, questo è un problema, è un problema serio. C'è una... Ma adesso bisogna bloccare le rotative del Sole 24 Ore per rifare la prima pagina, mi pare, no? Sì, Lori del Santo, non sapevo per tanti anni, non conoscevo l'orgasmo clitorideo. Bloccate le rotative. Ma guarda che moltissime donne non sta dicendo, ragazzi, al di là degli scherzi, dei giochi, eccetera, questo aspetto qui è fondamentale. Cioè, non sa che cos'è. Molte donne non sanno cos'è l'orgasmo clitorale. Dunque, gli uomini di conseguenza non si regolano. Debora da Milano è arrabbiata con la signora del Santo, però. Debora, perché sei arrabbiata con la signora del Santo? Sì, molto. Perché? Perché? Perché mi dà fastidio pensare che siccome questa civiltà si basa sulle raccomandazioni e favoritismi, allora noi donne dobbiamo prestare il nostro corpo con scopi di carriera. No. Questa cosa mi fa imbestialire. Ognuno è... La signora del Santo ha detto una cosa molto semplice e condivisibile. Le donne utilizzano tutti i mezzi possibili, come gli uomini peraltro, e tra i mezzi che ci sono, che utilizzano le donne, c'è anche il corpo, l'avvenenza, no, Lori? E così tu sei andata avanti nella carriera. Io perché odio ciò che è costrizione e forzatura, che è una violenza. Ma quando una persona decide da sola di che cosa fare, io trovo che la libertà deve vincere. Ma tu hai fatto qualche volta... Scusa, ma chi non è interessato quando fa qualcosa? Chi non ha dei sottopensieri substrati? Ma dove sta questa limpidezza? Uno deve andare avanti solo se ha talento e capacità. Scusati. Ma il talento e la capacità, talvolta, per metterlo in evidenza, bisogna fare qualche stratagemma. Scusami, tu hai mai, diciamo la verità, l'hai data? No, io mai. Per guarda, lavoro l'hai data, l'hai data per lavoro. Lo dico, l'hai data per lavoro. L'hai data per lavoro. L'hai data per lavoro, dai, su. Mai, Lori. Io mai. Ma no, infatti, mai, forse magari se lo avessi fatto avrei se l'avessi fatto, di più. Eccetera. Però non è neanche vero questo. Io ho sempre creduto che non avrebbe fatto la differenza. No. Nel mio caso, infatti, no. Bah. Perché se no, però, se avesse fatto la differenza, sarei stata disponibile. Non mi è capitata l'occasione, forse non ho incontrato l'uomo importante. Non ti sei fatta manco Trump. Giusto. Non ti sei fatta se manco Trump. Se avessi incontrato Ponti, che mi faceva fare il film come protagonista, l'avrei fatto. Nemmeno, ne so. Non sei stata nemmeno con Trump. Che se ti Ponti, sei avvicinata, non ti dire, sei. No, Ponti, il coso. Ponti, il marito, produttore. Il produttore, sì. Fermi tutti, che adesso parliamo di un argomento fondamentale. Ferma lì, Lori, che sei interessata anche tu. Ferma. Allora, ragazzi, qui è una persona seria, non questi cazzoni che ogni tanto girano che invita Parenzo. Cioè, non questi cazzoni. È un professore, innanzitutto. È un professore. Si chiama Testoni, Pier Alberto Testoni. È un gastroenterologo. Ma è per il comitato, è con Zagrebelsky del comitato del no al referendum. Questo non lo so, ma che gliene frega lui? Quello è il gastroenterologo. Magari è interessato anche al referendum costituzionale, non come credo. Come gastroenterologo? Io pensavo inviti un professore, pensavo si parlasse del referendum. No, che referendum? Ma che ce ne frega il referendum? È una cosa fondamentale che fanno tutti gli italiani. Andare in gabinetto. Come sostanzialmente, scusi professore se utilizzo questo termine, come si caga, il modo corretto per cagare. È d'accordo. Docente anche all'Università San Raffaele di Milano. Sì, ma non penso che la dicitura della cattedra sia questa. No, come no, gastroenterologo, come no. Professor Testoni, buonasera. Buonasera professore. Buonasera. Come andiamo? A tutti. Bene, grazie, sto sentendo in diretta. Alzi un po' la sua voce, perché se no non sentiamo in diretta i commenti vari. Però io vorrei capire da lei qual è. Perché quando uno si siede normalmente in bagno, diciamo in una posizione a 90 gradi, no? Io vado in bagno, mi siedo, magari io non uso portare i libri in bagno, molta gente però usa un telefonino, si siede, cioè. Perché non è la posizione corretta? Quali danni provoca la seduta tradizionale nel cesso per cagare, mi scusi? Ma non è che provoca danni, diciamo che è più fisiologico un atteggiamento accovacciato, come avviene nel bagno alla turca, perché comunque la capacità di contrazione dell'addome nell'evacuazione, la coordinazione della contrazione dei muscoli che sono del perineo, che sono connessi. Aspetti professore, però dobbiamo richiamare, perché io non sento, sentiamo, non molto sento. Sentiamo molto disturbato, adesso la richiamiamo, un attimo solo. Allora, il professor Testoni, adesso che ci ricolleghiamo, ci spiegherà nel dettaglio perché sedersi. Lori, sei interessata a questo argomento? Sì, può essere che ci sia qualche novità che non conosco. Esatto. Sapere, tu come ti siedi sul cesso? Come ti siedi sul cesso? Scusami se te lo chiedo. Come ti siedi? Io normale. Ultimamente hanno messo l'asse male e appena mi siedo slitto e prendo un colpo al cuore, penso di cadere. Come che infatti adesso devo chiamare qualcuno per che hanno messo male? Che hanno messo male? L'asse del VAT, del WC, del VAT, l'asse, no? Sì, l'asse, che vuol dire l'asse? Ci si siede su quest'asse. Ah, sì, sulla cosa. È solo che schizza perché non è ben ferma e fa tum. Vabbè. Quindi veramente ogni volta è un problema di viti, però. Basta chiamare qualcuno, un piccolo un tecnico e che esatto, appunto, ma quale tecnico? L'idraulico, un falegname? L'idraulico, l'idraulico, l'idraulico, credo l'idraulico, anche il falegname, sì, un operaio qualsiasi. Che non è difficile, da 30 ecco, euro. Per lei soprattutto non è difficile, anzi se qualcuno è all'ascolto, tu abiti sempre nella casa dove abitava Scaiola, lì a cosa? No, io abito a Milano da 25 anni. Ma c'avevi pure una casa lì dove abitava Scaiola? Sì, ma prima. Prima, a Milano da 25 anni, adesso senza dire l'indirizzo, se c'è qualche tecnico che può aggiustare il cesso alla signora del santo. Ma sì, perché prendo un colpo ogni volta, schizza di botto, pum. Boom, una botto subito. Capito, fuori nulla. Disposto a prendere l'aereo da Tel Aviv. Si lascia perdere il tuo amico ebreo. Però se c'è un tecnico dei cosi, un tecnico dei cessi, che sia un operaio qualsiasi, anche in quella cosa lì, perché l'asse l'ha cambiata il mio compagno. Ma tu lo chiami asse? Come si chiama? Parenzo, scusa, no, ma l'asse, la tavoletta. La tavoletta l'ha messa lui perché l'abbiamo sostituita. Ha detto no, allora, faccio io che sono bravo. Esperti, la messa, da quando l'ha messa è un incubo. Esperti, cioè devo chiamare un tecnico. Esatto, esperti delle tavolette, esperti dei bagni. La signora Lori del Santo, cioè una signora, una bella signora, che per carità non è che vi aspettate niente, è una signora per bene, beh, aiutatela a risolvere questo problema, che ogni volta che si siede fa un movimento strano, capito, c'è uno esce fuori, so va a sinistra, boom. Certo, professor Testoni? Sì, questo non avverrebbe se non si svolgasse, di fatto. Non si sente, io non so che devo fare. Pronto, mi sente? Adesso la sento. Allora, professor Testoni, sedersi normalmente, cosa, quali danni può provocare? Sedersi, com'è tradizione sedersi? Ma come danni? Ma sicuramente non provoca danni. È sicuramente più fisiologico un sistema diverso, che è quello che prevede la covacciarsi un po' alla curta, perché ha dei vantaggi sia sul meccanismo di contrazione dell'addome per l'evacuazione, sia sulla coordinazione dei muscoli del perineo, che sono il perineo deputati. È fondamentale, sì, certo, il perineo, esatto, è fondamentale. Allora, cioè, voglio dire, sedendosi a 35 c'è un asse diverso. C'è un asse diverso, cioè l'evacuazione più rettilinea, più in asse se uno è accovacciato che se uno è seduto. Però questo non è che adesso dobbiamo cambiare tutto il nostro stile di vita, perché eventualmente noi andiamo in bagno tranquillamente con questa posizione e non succede niente a nessuno. Quello che può essere un problema è chi ha già dei problemi, chi ha già dei problemi di che tipo? Se ha difficoltà a evacuare le feci, sì, vabbè, quello se ne accorge. Poi la posizione migliore alla fine qual è? Si rende conto che la posizione accovacciata è la migliore. La posizione migliore, quanti gradi è la posizione migliore? Questa è la posizione migliore, è sui 60, 35, 90 gradi. Ridotta. No, scusi, mi hanno detto che 35 è quella migliore. 35, se dai, 35 è proprio accovacciato e accovacciato, però lì bisogna stare per terra. Io direi che 35 è la benissima, è perfetta, poi bisogna trovarsi sul pedimento. Cioè tra i 35 e i 50, sì, tra i 35 esatto, e i 60. 35-50 sarebbe ideale, ecco. Tra i 35 e i 50. Dunque, ragazzi, trovate una posizione qualsiasi, perfetto, con un piccolo sgabello. Ma che vuol dire, dai? Con un piccolo sgabello, prendete una posizione... fa più male. Poi io penserei che se uno non ha problemi va in bagno come è sempre andato, perché anche lo sgabello crea il rischio di scivolare e cadere, poi ci si va veramente male. Sì, quello sì. Comunque posizione ideale 35-50. Grazie, professore, grazie. Allora, Lori, per quello che si è potuto capire da questa telefonata complicata, mentre tu riesci da questa a... inchiesta, diciamo. No, ma perché uno che non si capiva un cazzo perché la telefonata... Guarda, sentiva... io non ho avuto il bagno per tanti anni, sì, andavo fuori nei prati, fino a 14 anni non ce l'avevo, si andava nei prati... Fino a 14 anni andavi nei prati? No, io il bagno no, vengo da una famiglia molto povera e quindi uscivo, sì, e la mia preoccupazione non era a quanti gradi, era che nessuno mi vedesse, quindi viaggiavo, dicevo no, di qua dietro all'albero, il cespuglio, guarda che incubo, cerca. Poi finalmente qualche contadino arrivava lo stesso ogni tanto, quindi era come nascondersi. Senti, ma quanti soldi ti hanno offerto per fare sesso? Una volta che ti hanno offerto tanti soldi, quanti te ne hanno offerti? Che ne so, 10.000, 20.000, 30.000? Ah, io sono una che non è capace di chiedere. No, ma quanti te ne hanno offerti? Vieni con me, ti do 20.000 euro. No, a me non mi hanno mai offerto niente così platealmente, no. Platealmente no. E il regalo più grosso? Mi hanno conquistato sempre magari un... facendomi intuire qualcosa, ma non dicendomi ti do questo. Però se ti fossi, no, se ti fossi trombata Trump, se fossi no, andata lì con è stata Trump, una mia defiance, chiamiamola momentanea, ma ti penti però un po', voglio dire, vuol dire che c'è un destino in tutto e va bene così. Ti penti un po' di non essere andata con Trump, eh? Ma lui è uno simpaticone. Tu lo voteresti? Lo voteresti in America? Ma che c'entra? Io l'ho conosciuto quando la politica. Ma lo voteresti o no? Lo voteresti non c'entrava nulla, quindi io mai l'ho giudicato al punto di vista. Ma lo voteresti o no? Ora? Beh, ora c'è un, adesso c'è il nuovo dibattito Clinton. Vabbè, Trump. Ma lo voteresti o no? Bisogna vedere questo dibattito, bisogna vedere come reggono, se si affronteggiano proprio così. È il dibattito adesso. Vabbè, grazie, è grazie. È lì che si vede la debolezza. Sì, certo. Grazie, sì. Lori. Ciao, ciao, okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, allora, okay. Chi c'è qua? Giuseppe da Roma, dobbiamo chiudere. Che rottura di coglioni. Io continuerei stasera, lo sai? Ragazzi. Io ho già le lasagne sul fuoco, però. Mamma mia, come sei banale. Ci sentiamo domani, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Siete il peggio del peggio, fate schifo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.